incombe un compito che è gradevolissimo, ma è anche rischioso. Siamo al termine di una settimana di lavoro intenso e abbiamo anche problemi di tempi orari. E c'è anche la difficoltà di concludere, se si prende la parola alla lettera, concludere nel senso di chiudere. Ecco, io credo che si possa, si potrebbe dire che la ricerca non si conclude, è senza fine, e limitarmi a questo, credo che questo farebbe tutti felici, ma come sappiamo la felicità è rara a questo mondo, in quello vecchio come in quello nuovo, e quindi qualche cosa dovrò dire, dovrò fare qualche considerazione che va intesa, diciamo, nei termini di divagazioni personali, di ascoltatore che ha imparato molto da questi giorni, va intesa almeno come intenzione, diciamo come apertura verso il lavoro che continueremo a fare. Più che come riassunto di ciò che è già fatto. E allora, intanto qualche considerazione sull'occasione che ci ha riuniti, che è un'occasione indotta dal gioco dei tempi, dallo scorrere dei secoli, è un'occasione centenaria. Ora, le ricorrenze centenarie hanno il valore molto relativo che hanno in termini e ai fini del progresso della ricerca storica. La contemporanea crescita smisurata della politica della cultura, quella che uno studioso ha recentemente definito lo stato culturale, non è un segno di buona salute per la ricerca storica, che ha bisogno di analisi attente, di capacità di distinguere e di precisare, e non ha bisogno di invidia a osannare questo o quel committente. Tuttavia va anche detto che la storia delle questioni ci aiuta a capire dove ci troviamo noi e come sono cambiati i problemi. E così l'osservatorio del centenario può essere utilizzato come momento di sosta, come momento di riflessione per verificare il cambiamento delle nostre domande, delle domande che gli storici pongono ai documenti, delle domande che le società del presente si rivolgono attraverso l'esame delle società del passato. Se questa settimana di studi avesse avuto per oggetto un riesame complessivo della storiografia sulla conquista dell'America, sarebbe stato interessante proprio vedere attraverso le sezioni offerte dai diversi centenari come sia cambiato di secolo in secolo il tipo di domande, come siano cambiate le interrogazioni. Forse avremmo potuto registrare un'emergenza di toni che esaltano l'eroismo di scopritori, missionari e mercanti nelle sintesi geografiche del primo centenario, e ci saremmo poi dovuti soffermare su quell'inquieto interrogarsi sugli effetti della scoperta dell'America sulla società europea, sul problema se la scoperta dell'America abbia o meno contribuito alla felicità dell'Europa, che tiene il campo nella riflessione tra 6 e 700 e che influenza fortemente la discussione nuova, tutta nuova appunto del secolo XVIII, per attestarci poi ad un riesame di quel prepotente ingresso del nazionalismo europeo nel XIX secolo, con i suoi riflessi sulla spartizione delle glorie del passato, le polemiche sulla nazionalità e sui meriti delle singole nazioni incarnate nei loro portatori avant la lettre, e Colombo quindi come rappresentante di un nazionalismo italiano recente e tuttavia aggressivo. Ecco, la questione della scoperta, insomma, è stata, e questo mi pare un insegnamento che ci interessa, visto che qui ci siamo soffermati sul tema della coscienza, è stata una specie di specchio che la società europea ha avuto nel passato. America, specchio dell'Europa, no? Specchio anche sintetico, questa è la sua utilità. Specchio sintetico, luogo dove l'Europa tende a riflettersi tutta intera e sul quale tende a proiettare il suo senso di unità, le sue incertezze complessive. E dunque la discussione sulla scoperta dell'America, la rievocazione centenaria e la riflessione storica come occasione tradizionale di riflessione sulla identità dell'Europa e sulla sua eredità storica. Ottimo specchio anche per semplificare, per trasmettere il senso di volta in volta prevalente del proprio passato. È evidente che una dimensione mondiale della storia europea ha sempre trovato qui, in questo angolo visuale, il momento migliore per rendersi consapevole. Penso agli episodi che vi saranno familiari, appunto, del modo in cui i viaggiatori, i missionari europei raccontano l'Europa fuori d'Europa. Ci sono testimonianze singolari di portatori dell'identità europea che vengono da un continente lacerato da conflitti politici e religiosi, che nel raccontare, per esempio, gli interlocutori orientali, gli unici ritenuti all'altezza di un dialogo alla pari, e che di fatto erano in condizione di imporre un dialogo alla pari, presentano una identità europea indivisa, pacificata, unitaria, disegnata appunto dai contorni di questa figura femminile che evocavamo poco fa, capace appunto di essere un'entità unitaria. E basterebbe seguire il modulo dei continenti che parlano di sé per trovare inalterata quella definizione dell'Europa come l'antica e rinnovata definizione dell'Europa come la più piccola e nello stesso tempo la prima parte del mondo, la moindre, la première partie du monde, si legge ancora in un gioco di carte del primo 600 con incisione di Stefano Della Bella, dove ogni continente viene definito in forma di figura umana e raccontato ed esposto. La première partie du monde per che cosa? Per la sua fertilità, per il valore, la civilité, la science, la renommée et multitude de ses peuples, e pure tra le siège de la chrétienté, quindi unica, unitaria, più elevata, più importante, con una serie di attributi che la riguardano nel suo insieme. Questo tema dell'unità dell'Europa all'esterno ci torna oggi, mi pare, all'interno, offerto alla storiografia come tema di riflessione. Il problema è se si possa decifrare finalmente l'intrico dei segni lasciato dall'incontro di culture e sapere infine che cosa sia divenuta l'Europa grazie all'America, oltre che sapere che cosa l'America è divenuta grazie all'Europa. Il colonialismo dominante nel centenario precedente, imperante nella storiografia europea dell'Ottocento, imponeva un conflitto e una gara sui meriti delle singole nazioni e cercava nel passato le radici del contrasto di potenza presente. Oggi la decolonizzazione ha reso radicalmente impossibile ogni impresa del genere e il nostro orizzonte è occupato da anni dalla visione dei vinti. E il linguaggio storiografico registra forme di autoflagellazione della cultura europea o di eteroflagellazione anche della cultura europea con termini che mettono sotto accusa il comportamento passato degli europei. Si parla appunto di genocidio, di saccheggio e di altro ancora. Si contrappongono gli intolleranti cristiani europei a indios, ebrei, marrani, eretici, in un atto di accusa complessivo che investe la capacità della tradizione culturale europea, anzi la incapacità della tradizione culturale europea, la presunta incapacità di accettare al suo interno la differenza, l'altro. La letteratura antropologica più recente tende a giocare su questi termini, la cultura europea come caratterizzata dalla incapacità di ammettere le differenze, senza produrre immediatamente uno sforzo di eliminazione del diverso e di riaffermazione dell'identità. Ora, più che da questa contrapposizione ostile tra l'identità europea e qualsiasi forma di alterità, dalla quale poco riusciremo a capire di come sono andate effettivamente le cose, si direbbe che il compito nostro sia quello di avviarsi finalmente a indagare le molte forme dell'incontro, spezzando questo senso oppressivo della identità e della immutabilità di una specie di tragedia storica sotto il segno dell'errore e della violenza. E questo già si sta facendo e conferisce, mi sembra, di nuovo alla storia culturale una funzione fondamentale negli studi storici sull'argomento. La strada degli esperimenti e delle proposte è lunga, ma la sua direzione sembra chiara. Si è parlato di acculturazione, di rapporto con l'altro, di scoperta del diverso, e per questa via la storia della scoperta dell'America è diventata anche un incontro obbligato sulla strada di una riflessione storico-morale, di una specie di moralità civile nuova, che ha per nucleo centrale la questione della unicità o pluralità della nozione di civiltà e il trasferimento della pluralità della nozione di civiltà sul luogo concreto degli studi storici. Questa sembra appunto la domanda che stimola le ricerche storiche in maniera non improvvisata, non nata con questo quinto centenario, ma maturata negli ultimi decenni. Non si tratta più di celebrare o deprecare l'evento della scoperta e le conseguenze della conquista, discutendo intorno a un unico vincitore, la civiltà moderna europea. Si tratta piuttosto, per comune e diffuso riconoscimento, di ammettere che vincitori e vinti si sono modificati reciprocamente e che si tratta di scoprire concretamente di volta in volta in quali modi. Naturalmente questo significa anche reincorporare l'antropologia nella storia e non accettare questa messa sotto accusa da parte degli antropologi di un percorso storico, per invece usare gli strumenti antropologici per identificare le forme concrete dell'incontro e delle molteplici modificazioni. Reincorporare l'antropologia nella storia è facile a dirsi, ma non è ancora chiaro come si faccia. Ma l'ipotesi che sta all'inizio di questa ricerca è che appunto non ci siano blocchi monolitici, da un lato civiltà europea con la sua storia, dall'altro le culture dei primitivi, l'una destinata a vincere, le altre destinate a scomparire. Sappiamo che ci sono stati certamente vincitori e vinti, e questo nessuna edulcorata visione della acculturazione come UNESCO del passato può farcelo dimenticare. Ma sappiamo anche che ci sono, immaginiamo anche, oltre quelle che sappiamo, che ci siano molte complicate e diverse storie nelle quali i vinti e i vincitori sono entrati comunque in contatto, si sono modificati, non sono rimasti gli stessi. Un mondo dunque da un lato sempre più unificato, dall'altro sempre più frammentato, secondo linee nuove, riconosce l'inizio della sua storia nell'errore di Colombo, nell'errore scientifico di Colombo. La storia della cultura, la storia intellettuale, la Geistesgeschichte, e se volessimo discutere di etichette ne avremmo parecchie da esaminare. Diremmo piuttosto che si tende ormai ad occuparci, da parte dei praticanti della ricerca in concreto, che non hanno voglia di metodologizzare in astratto, della storia di formazioni culturali nate da compromessi variabili tra vinti e vincitori. Abbiamo ormai alle spalle come un punto fermo quel colloquio parigino del 1929 sulla civilizzazione, dove si impose con decisione l'uso al plurale del termine, e da quella tradizione di studi sono venute anche di recente sollecitazioni importanti che continuano a animare le nostre riflessioni. Penso agli studi di Vachtel, di Krusinski sulle culture americane post-colombiane e la ricca rete di connessioni che ci hanno indicato. Sono ricerche che hanno prodotto buoni risultati proprio perché hanno abbandonato quella impostazione vetero-colonialista grazie alla quale ancora negli anni 40 Ramon Menéndez Pidal poteva affermare che la cultura americana era soltanto una estensione oltre Atlantico di quella europea, e che se la Spagna avesse potuto imporre la stessa identità culturale europea anche all'est, non avremmo avuto di fronte un mondo sconosciuto e radicalmente altro come quello della Cina. Ecco, naturalmente è difficile accogliere in concreto le sollecitazioni positive di questa svolta nel campo delle ricerche nostre che sono di storia europea. E tuttavia è antica l'intuizione che il rapporto fra americani e europei non poteva essere a senso unico. Come ha ricordato anni or sono Eliot, era trascorso appena un secolo dalla scoperta che giusto Lipsio pensava bene di applicare a quel rapporto quell'antico celebre detto «Novus orbis victus, vos vicit». Naturalmente si voleva dire allora che il rapporto tra il mondo nuovo e il mondo vecchio tendeva a peggiorare e corrompere il vecchio, si vedeva scomparire con preoccupazione tutta una serie di tratti dell'identità europea. l'esperienza di quella natura, delle relazioni umane che gli europei intrattenevano con le popolazioni indigene, mostrava che i vincoli della morale si allentavano, che i tratti della religione europea si stemperavano, tendevano pericolosamente ad accogliere dati nuovi e che gli uomini non tornavano dall'America migliori nel senso tradizionale di come erano partiti. Ma quando è stato indagato il percorso, quando sono stati studiati gli effetti imprevedibili della vittoria, per esempio dell'uso delle immagini per la conquista culturale dell'America, quando si è visto il ritorno, il modo in cui la cultura delle immagini ritorna dall'America sulla cultura europea, si è intuito quel vasto processo di ricezione e rielaborazione culturale che coinvolge tutto il mondo europeo. E basterebbe del resto la prova che l'esperienza americana costrinse a fare di tutta l'eredità culturale europea per mostrare come siano arbitrarie e ormai improponibili le ipotesi e i discorsi su una specie di autonomo evolversi della cultura occidentale. E questo è il punto, mi sembra, che ha unito nella loro differenza di fonti e di riferimenti le nostre relazioni che abbiamo avuto in questi giorni. Si situa, mi pare, qui il tentativo che abbiamo fatto di riprendere il problema nei termini della coscienza italiana e tedesca, di viaggiatori, di editori, di mercanti, la coscienza e la scoperta dell'America. Siamo posti in una condizione di limitazione delle fonti, per noi limitate a quelle europee, e questo ci ha spinto a riconsiderare analiticamente e concretamente quello che avviene quando sull'orizzonte europeo di due mondi culturali europei si affaccia l'America. Quindi piuttosto la storia della cultura che la storia politica, no? Su questo poi anche vorrei un attimo soffermarmi rapidamente. Storia della cultura, storia intellettuale, come i campi più attraenti ancora una volta, e si è scelta di fatto, era inevitabile farlo, appunto la storia delle rappresentazioni mentali, come la via della storia delle rappresentazioni mentali in un contesto determinato come la via più adatta. La scelta era obbligata storicamente dal fatto della posizione di allora dei paesi di cultura tedesca e italiana davanti al compito che si pose all'Europa negli anni della scoperta, partecipazione all'impresa della conoscenza più che a quella della conquista, legami storici con l'impero, un filtro prevalentemente religioso, un legame prevalentemente religioso della coscienza degli avvenimenti, no? Presenza di Roma, di Wittenberg, è stata più volte evocata. Dunque il canovaccio dell'incontro era implicitamente prevedibile, valerci insomma dello specchio americano per conoscere meglio la storia culturale della Germania e dell'Italia in una fase decisiva del passaggio all'età moderna che abbiamo identificato all'ingrosso nel secolo XVI e che si è di fatto tradotto, e anche questo si presta a qualche riflessione, in un arco di tempo che va dalla metà del 400 ai primi decenni del 600. Naturalmente, ripeto, non si possono né si debbono trarre conclusioni generali dalle ricerche che sono state esposte, proprio per non tradirne la ricchezza e per non avallare l'idea di una metodologia generale che sovrasta le ricerche concrete. Anzi, l'insegnamento che se ne potrebbe ricavare proprio dalla ricchezza di proposte che abbiamo avuto è che appunto l'insegnamento va nella direzione delle moltiplicazioni delle indagini particolari. Dio è nel particolare, come è stato detto. Possiamo invece provare a indicare qualche linea complessiva che è emersa da questo nostro incontro, e non dirò del merito delle singole ricerche, che non è mio compito. Proviamo ad elencare appunto queste che direi linee generali su cui ci siamo trovati a muoverci. Intanto appunto la storia della coscienza, delle immagini, delle rappresentazioni ha certamente dominato. Non abbiamo parlato di mentalità, mi pare, questo vale la pena pure registrarlo. Se ne è parlato raramente, soltanto in riferimento a precisi e ben individuati gruppi sociali e religiosi. Diffidenza per la storia delle mentalità alla francese, soprattutto per l'idea che la storia sia solo una specie di evoluzione di immagini partenogeneticamente riproducenti, di immagini soggettive che si incarnano in testi, testi di cui non importa tanto il quantum di verità, ma la tessitura formale e la capacità di riprodursi ad infinitum. Ecco, questo mi pare, il rifiuto di questo ci ha unito. I testi sono stati indagati per la ovvia ragione che essi sono le nostre fonti. Qui si depositarono le conoscenze, quelle precedenti e quelle contemporanee e successive alla scoperta. Colombo, uomo senza lettere, chiosa però attentamente Pio II, Pier d'Ailly, Marco Polo, la Bibbia, e da quel sapere del libro ricava le indicazioni per una impresa, gli strumenti per propagandarla, per inserirla in un disegno provvidenziale, in un disegno già previsto. E quindi l'importanza delle fonti, l'importanza di analizzarle iusta propria principia utilizzando gli strumenti dell'analisi testuale. I tempi su cui si sono mosse o le fasi segnate da queste relazioni mi sembra che si possono forse articolare così, diciamo. Intanto ci sono le precondizioni, cioè il discorso su Colombo invita a segnalare questo aspetto, le precondizioni della coscienza e della scienza europea, no? Le precondizioni della scoperta, poi le informazioni sulla novità della scoperta e poi, in un ordine di tempo che è più formale che reale, ma che ha una qualche realtà, e poi il tentativo, il processo di integrazione del nuovo, quindi diciamo quali sono le radici della scoperta, quali sono i modi delle informazioni, come ci si muove quando si tenta di integrare la novità. Ora, queste le precondizioni della coscienza, della scienza europea per la scoperta sono state indicate in un modo di procedere che accosta l'antico, riscopre l'antico accanto al nuovo, accosta l'antico al moderno, in un atteggiamento cauto, concreto, disponibile, capace di far convivere, senza registrarne uno shock intollerabile, di far convivere il nuovo e l'antico, senza porsi problemi di coerenza, di eccessiva coerenza. La cultura, si è parlato della cultura degli umanisti, ma anche del campo più propriamente e specificamente di tradizioni scientifiche. Non siamo ancora davanti a conoscenze disciplinate, si è detto. Le discipline della conoscenza, le discipline in cui si depositerà poi il quanto di nuovo emerge in questo periodo, queste soprattutto le discipline della storia e della geografia, comprendendo anche nella storia l'antiquaria, la descrizione dei costumi, dei riti, delle credenze, ecco, queste discipline si piegano, si alleano e si dividono nel corso di questa vicenda e in rapporto diretto con tutto quello che accade tra Europa e America. Corrado Vivanti ha segnalato la linea lunga che arriva dalla cultura umanistica sul rapporto fra storia e geografia, lo sforzo di Pio II di elaborare una conoscenza del mondo adeguata ai tempi, il modello offerto da Flavio Biondo di rielaborazione delle conoscenze antiche. E questo fa pensare al rapporto problematico, ha fatto pensare e discutere al rapporto problematico che si apre tra le varie divisioni intellettuali del sapere per comprendere, per unificare la folata continua di novità. Tutti sappiamo che la storia ha divorziato dall'antropologia nel momento in cui si è imposto un rapporto di dominio tra mondo europeo e mondo extraeuropeo, riservandosi al mondo europeo il diritto ad avere una storia, cioè un percorso dotato di senso, ascensionale e progressivo, mentre ai popoli extraeuropei si lasciava solo la possibilità di vivere più o meno vicini alla natura, più o meno a un livello infantile. Ecco, prima di arrivare a questo divorzio che è stato tante volte segnalato e messo sotto accusa, ci furono diverse forme di convivenza tra descrizione della natura, degli oggetti, dei riti, dei costumi da un lato e racconto delle forme di potere nel tempo, cioè la storia. Ma l'elaborazione delle forme di conoscenza, l'incertezza nel riadattare, una lunga fase di incertezza nel riadattare il campo delle discipline e della divisione del lavoro intellettuale, debbono essere studiati ancora. Si potranno capire meglio allora quelle cose che sono emerse nelle nostre relazioni, in particolare quelle inesplicabili sordità alle novità americane, quelle per noi inesplicabili sordità alle novità americane, per cui descrizioni scolastiche del mondo continuarono a ignorare, per esempio, il nuovo continente a 500 inoltrato. questo sfondo di rielaborazione e di adattamento dei saperi tradizionali può esserci utile anche per intendere meglio il modo in cui si capta il nuovo. Chi legge le relazioni del Ramusio, le confronta con quelle di Hakluyt, ha notato una diversa accentuazione delle conoscenze antiquarie, dei riti e dei costumi rispetto all'ottica mercantile della ricerca del guadagno, della ricerca del profitto. Si parlava delle precondizioni della scoperta, ecco, c'è questa fase poi della lunga, questa in cui siamo già entrati, nella lunga fatica di accumulo di informazioni e delle forme della conoscenza, i veicoli della conoscenza, i veicoli per rispondere alla curiosità vasta, onnivora, che caratterizza questa fase, che è stato il tratto che più è stato sottolineato, questo atteggiamento curioso, disponibile, questa capacità di accogliere moltissimi dati, ma anche lasciandoli in disordine, oppure tentando di ordinarli in queste gallerie che abbiamo ammirato, stamani. Abbiamo avuto una vasta serie di proposte anche sui veicoli dell'informazione. Prima di tutto la stampa, c'è questa contemporaneità con un'arte, con un'industria che ha in Italia e in Germania, e in Italia, i suoi luoghi propri. La stampa, ma anche i manoscritti, con forti continuità fra manoscritti e stampe, le lettere private che si stampano, le stampe che si riflettono nelle comunicazioni private. E sono emersi i generi letterari, dalla lettera alle forme narrative più ampie, la storia, le decadi, le relazioni. E qui il gioco del nuovo e dell'antico è apparso molto complicato. Certo, la lettera si garantisce un successo straordinario, immediato, con l'apparizione di quelle di Colombo e di Vespucci, alle quali la pur nota lettera del prete Gianni non aveva da sola la forza di predisporre un modello, di preparare un canale. Qui l'elemento, l'effettiva novità incide sui generi letterari, sulle forme della comunicazione e apre un largo successo a un veicolo rapido, informale, agevole di informazione. C'è proprio il bisogno di uno strumento, appunto, che sia adatto ad una informazione versatile, con un pubblico che la stampa può dilatare enormemente. E non per caso fu quello il genere che poi, in una seconda fase, quella che abbiamo detto della integrazione del nuovo, fu riservato, per esempio, dai missionari alla propaganda, sfruttando un credito che questo genere letterario si era guadagnato nella prima fase, quella della comunicazione del nuovo. Le lettere dunque come veicolo di conoscenza. E qui si è andati dagli adattamenti e versioni dei più celebri modelli di Colombo e Vespucci fino alle lettere riservate al funzionamento dell'azienda dei Fugger. La storia della circolazione delle informazioni si deve rifare ancora a queste carte, il campo di indagine non è esaurito e penso che i materiali, che il volume degli atti potrà comunicare saranno piuttosto ricchi e notevoli da questo punto di vista e si presteranno a dei confronti. Ecco, il problema della integrazione. Quando la novità è stata percepita, si pone il problema della integrazione dell'ignoto col già noto. E qui si sono toccati i momenti più significativi del dibattito sulle forme della integrazione. Quel che è nuovo è anche diverso. E come ci si rapporta col diverso, con l'altro? Ecco, i dibattiti che si svolgono nel contesto della Spagna di Carlo V sono apparsi, dal nostro angolo visuale tedesco e italiano, sono apparsi lontani, un po' sfocati. Eppure, prima che il grande nome di Bartolomé de las Casas venisse utilizzato nella costruzione di una leyenda negra per la propaganda, utile per la propaganda politica antispagnola, va pur ricordato che la questione della violenza contro chi pensava diversamente in materia religiosa era stata agitata aspramente proprio in Germania e in Italia. C'è una contemporaneità che tutti abbiamo tenuto presente, che ci ha posto delle domande, dei problemi, tra movimenti di riforma religiosa e conoscenza e conquista dei mondi extraeuropei, una contemporaneità che si è affacciata, per esempio, quando si è parlato di Martín de Valencia e di quel topos che presenta l'espansione del cristianesimo in America come compenso di quello che avviene, di quello che si perde in Europa per opera dell'altro Martin. Insomma, quello che per la Spagna è un problema politico si rivela in Italia e in Germania un problema prevalentemente religioso e culturale, di visione del mondo. Non per caso pensavo all'affacciarsi dell'immagine del fare un nuovo mondo in contesti utopistici, ereticali, marginali, di gruppi inquieti, insoddisfatti. Fare il nuovo mondo qui, approfittando del fatto che l'esperienza sta mostrando che i mondi umani possono essere diversi, che il diverso ha diritto di presenza sulla faccia della terra. Non vorrei addentrarmi per questa via, soltanto vorrei segnalare un aspetto specifico del rapporto col diverso, questo aspetto specifico del rapporto col diverso, che a quanto è emerso dalle relazioni che abbiamo ascoltato, caratterizza Italia e Germania. Qui il diverso lo è sul piano religioso e l'ansia di ricomporre la frattura è assai più forte di quella che si avverte nel rapporto con la nuova umanità extraeuropea. Il problema se ci si possa salvare restando in puris naturalibus è posto da gruppi ereticali che parlano sì anche degli indios, penso a Celio II Curione, in questa posizione anche geograficamente a cavallo fra Italia e Germania, nell'angolo tollerante che gli era rimasto. Ecco, questo problema è posto ma come una comparsa giuridica in un'argomentazione che si riferisce ad un contrasto teologico sempre più aspro all'interno del mondo europeo. L'intolleranza si affaccia dunque sul terreno religioso interno a Italia e Germania prima di riflettersi o di vedersi nello specchio del terreno coloniale. E qui forse si potrebbe vedere un movimento di riduzione delle differenze tollerabili, il compattarsi di identità, di coscienza, no? Di unità di coscienza, e l'avanzarsi prepotente del bisogno di conquistare le altre culture nel senso di integrarle alla propria, di far scomparire gli elementi di differenza, a rischio di cancellarle o di sostituirle. E qui c'è un movimento proprio, un modo proprio specifico dei mondi italiano e tedesco che li differenzia in qualche modo da quello che si era verificato probabilmente nel mondo spagnolo. Qui si possono avviare dei discorsi di comparazione che sono ovviamente molto rischiosi, ma è ben noto come nel mondo iberico la Reconquista, con la cancellazione delle minoranze religiose interne, avesse preceduto e condizionato l'espansione europea. In questo processo di integrazione, quelli che noi abbiamo incontrato sono stati soprattutto, e qui l'ultima osservazione che vorrei fare, abbiamo incontrato soprattutto degli agenti sociali, dei corpi che fanno capo non allo Stato ma alla Chiesa o a istanze comunque non direttamente e immediatamente politiche. Abbiamo visto per esempio che le energie umane accese dal desiderio di conquistare intellettualmente, di colonizzare culturalmente le Indie, furono suscitate da ideali religiosi, ebbero come punto di riferimento la Chiesa. Non abbiamo trovato lo Stato e tuttavia abbiamo però dovuto riconoscere un momento molto importante della riflessione sul nuovo mondo in quella maturare della coscienza missionaria, in quel passaggio della coscienza missionaria dal modello medievale della peregrinatio, della predicazione affidata al solo esempio della vita e dei costumi evangelici, a quello che potremmo definire sommariamente il modello francescano, alla costruzione di un discorso complesso di comprensione e persuasione che passa attraverso l'esigenza di una formalizzazione statale. L'azione dei missionari tende a costruire, abbiamo visto, strutture di governo, forme politiche di coesistenza. Tende a confrontarsi con realtà statali dove ci sono, con realtà statali ben strutturate, quindi privilegia le Indie orientali, e dove queste realtà statali strutturate non ci sono, tende a costruirle in proprio, sfuggendo alla costruzione offerta dal dominio coloniale, cercando di farne a meno. Quindi questi agenti della integrazione portano con sé il disegno di una società politicamente strutturata. Senza lo Stato non si hanno condizioni dialogo e di integrazione della novità. E poiché lo Stato europeo altera le condizioni della conquista religiosa, ecco che nasce l'esigenza di crearne uno retto dai religiosi, affidando loro anche una autorità politica. Questo mi pare un punto importante, non per omaggio soltanto ai prevalenti interessi per la forma Stato che in questo istituto si alimentano, non per questo vorrei mettere questo tema della forma Stato assente e desiderata al termine di queste considerazioni sul percorso da noi seguito, perché mi pare che sulla complessiva funzione politica svolta dalla Chiesa, dalle istituzioni preposte alla coscienza cristiana nel canalizzare e strutturare il senso di sé, la coscienza di sé e quindi anche il senso dell'altro, del diverso, su questa funzione prevalentemente svolta da agenzie religiose potremmo trovarci d'accordo. L'altro naturalmente moltiplica poi la sua realtà. L'altro sono i contadini con la religione magica, le otras indias, sono i luterani, i calvinisti, o dal punto di vista riformato sono i cattolici, e lo sforzo di unificare l'Europa che si trascina durante le guerre di religione ha insomma offerto uno sfondo decisivo, mi pare, alla diffusione delle immagini del nuovo mondo. Come dicono i calvinisti francesi davanti al cannibalismo dei Tupinamba, ben altri e più feroci spettacoli aveva offerto la notte di San Bartolomeo. Ed è qui, questa lacerazione interna alla coscienza europea, come è noto, che prende avvio quella crisi della coscienza europea che porta a specchiarsi di nuovo negli altri per criticare se stessi. È il momento appunto dei cannibali di Montaigne, del mito, del modello del buon selvaggio, un tema che non si limita ovviamente soltanto alle questioni di Montaigne, anche se in lui trova un momento particolarmente alto. Quanto particolarmente alto e lacerante era il momento del conflitto civile aperto dalla frattura religiosa delle coscienze. E qui si potrebbe osservare che in assenza di uno Stato, delegandosi alla Chiesa la funzione di formare una coscienza unitaria, l'esercizio della eliminazione delle differenze conosce raffinatezze e complessità ignote al semplice dominio coloniale. Il confronto che viene spontaneo fare è con l'opera imposta dallo Stato spagnolo nel Cinquecento nei suoi domini coloniali, procede cancellando semplicemente le tracce delle differenze, delle diverse religioni, dei diversi culti, cancellando le differenze di lingua e imponendo ai propri funzionari di usare puramente e semplicemente il castigliano nella comunicazione statale, di adottare puramente e semplicemente la forma di memoria cronologica unidirezionale che caratterizzava il senso europeo e spagnolo del tempo. Ecco, questa è l'opera dello Stato spagnolo. Invece quello che fanno i missionari con il loro esercizio faticoso, difficile, che logora generazioni e generazioni di giovani che, seguendo il loro entusiasmo, si proiettano verso le Indie, quello che fanno i missionari è appunto questo esercizio faticoso di apprendimento delle lingue altre, di penetrazione all'interno di universi culturali altri, percorso certo difficile e sottile, che si pone comunque sul terreno della integrazione della differenza. Su questo non ci possono essere dubbi, al di là del difficilissimo gioco di equilibri che porta queste persone a vivere all'interno di culture completamente diverse dalla propria, cercando di assumerle senza però mai perdere la radice europea. Ecco, quello che è chiaro è che siamo sul terreno della volontà di imporre il proprio sistema di valori, la propria coscienza. A questo punto mi potrei fermare. Ci sarebbe da evocare, non l'affronterò, la vasta serie delle domande rimaste aperte. Mi limiterò limiterei semplicemente a sottolineare quello che è stato il nostro obiettivo per chiedere, perché ciascuno si interroghi sulla misura in cui lo si è raggiunto, diciamo, la storia comparata, no? La comparazione storica tra storie diverse, tra Italia e Germania, e quello che dallo specchio della coscienza delle scoperte noi impariamo sui processi sociali nei due paesi e sui tempi e i modi della loro evoluzione. L'utilità della comparazione storica, che è l'obiettivo di questi colloqui trentini e che è uno degli obiettivi, mi pare, di questi colloqui trentini, è tanto riconosciuta in generale quanto poi è difficile da perseguire in concreto. Qui sono stati offerti vari spunti di riflessione che penso frutteranno nella fase di rielaborazione delle relazioni e del loro allestimento per la stampa. Io personalmente sono stato colpito dall'area di famiglia che si ritrova nell'ambito della storia intellettuale e nella elaborazione di abitudini e di abiti scientifici capaci di trarre dallo shock della scoperta di una umanità altra la forza per elaborare la tradizione cristiana e classica, per scoprire nuovi mondi, nuove forme di alterità. Questa insaziabile curiosità di cui abbiamo avuto stamani una così ricca serie di offerte, questa insaziabile curiosità degli scienziati, gli altri mondi di Keplero, sono un esempio di questo esercizio avventuroso dell'ipotesi scientifica che abbiamo visto a tanti livelli della cultura e della coscienza europea, quella scommessa su ciò che resta da scoprire, quell'avventuroso viaggio delle carte nel definire un mondo che è ancora ignoto, nel mettere a frutto l'ipotesi che il mondo sia diverso, che il mondo sia da scoprire e che si possa scommettere su quello che si troverà, quindi l'uso appunto avventuroso dell'ipotesi. Sarebbe però presto venuto un momento in cui il compattamento forzato dell'unità di coscienza del mondo europeo sarebbe entrato in conflitto con l'esercizio della curiosità scientifica, della libertà delle coscienze individuali, ma qui il nostro percorso si è arrestato perché è un punto in cui la storia italiana e la storia tedesca hanno ricevuto una strozzatura comune. E quindi credo che proprio il percorso di questo aspetto delle scoperte, di questi riflessi delle scoperte, ci abbia aiutato a vedere quello che dicevo all'inizio, un secolo lungo, un arco cronologico ampio, dalla metà del 400 fino ai margini della prima metà del 600, spingendosi fino alle soglie di quella crisi della coscienza europea che coinvolse anche la coscienza del nuovo mondo. Ora, nel dovere gradito di ringraziare gli studiosi che hanno portato qui il contributo delle loro riflessioni e i giovani che hanno animato con la loro presenza, che hanno stimolato con la loro presenza, anche quando è rimasta silenziosa, le nostre riflessioni, il nostro tentativo di elaborare le nostre conoscenze, vorrei abbandonare il terreno della descrizione di ciò che si è fatto per avventurarmi su quello comune ai viaggiatori e missionari di questo nuovo mondo, della profezia. Ecco, vorrei fare una facile profezia, cioè che se i colleghi che hanno fatto queste relazioni ci daranno per tempo i testi e gli allegati, ne potrebbe nascere un volume che potrebbe essere un buon compagno di viaggio per i viaggiatori del prossimo 1992. Imbarcati sulla rotta della conoscenza del nuovo mondo, della scoperta del nuovo mondo, una lettura non favolosa come quella dei primi viaggiatori delle Americhe, dei conquistadores che si portavano, come sapete, dietro i libri di cavalleria, i romanzi, e li leggevano e alimentavano così le loro fantasie di quello che avrebbero trovato, l'Eldorado, la Fontana della Giovinezza, le Amazzoni, e poi puntualmente lo ritrovavano. Ecco, ma una buona lettura anche perché appunto ci aiuterà a portare avanti questo confronto a due e a tre, diciamo Italia, Germania e America, per decifrare qualcuna delle immagini degli specchi che ci accompagnano appunto da quando Colombo ha scoperto l'America. Grazie. Thank you. qualcuno adesso si ringrazi i due coordinatori che hanno costruito insieme e portato avanti questa nostra esperienza, che mi pare assolutamente positiva proprio, e sono felice, insomma, ecco, che il nostro istituto abbia potuto essere l'occasione e vuole continuare a esserlo, ecco, di queste compresenze, insomma, ecco. Appunto, che non sono comparazioni, ma sono compresenze in qualche modo. Grazie professor Reinhardt, grazie prof.